Il punto di Stefano Folli. Non è una novità che l'Europa e la Germania di Angela Merkel in particolare veda l'asse Bersani-Monti come la migliore garanzia di stabilità per l'Italia del dopo elezioni. La novità è che il segretario del PD è andato fino a Berlino per far sua questa prospettiva. E il Bersani tedesco ha parlato un linguaggio davvero riformista, senza le prudenze e le reticenze che lo distinguono quando parla in casa. Ha anche detto che con il sindacato, in particolare la CGIL, si deve certo parlare, ma poi il governo deve decidere e fare. Bersani ha anche teso la mano a Monti, segno che il colloquio con la Merkel è stato molto stringente appunto sulla prospettiva politica. Ora vedremo se la campagna elettorale del centrosinistra cambierà di segno. Il solo rischio di instabilità in Italia ha fatto tremare i mercati e questo è l'avviso più chiaro di tutti.